Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Stai ascoltando Runtime Radio, la radio geek. Dai, accendi. Runtime Radio, siamo tornati. 2021, yeah! Runtime Radio presenta Ludico Forum. E carissimi amici di Runtime Radio, bentornati in quello che è il programma che un giorno, quando l'avremo chiuso ancora una volta, qualcuno dirà: ma perché l'avete chiuso? Ma fino a che è aperto non lo ascolta nessuno. Ludico Forum, con me Simone Pizzi, abbiamo l'uomo che in una settimana ha battuto il record assoluto di live streaming nel mondo, Carlo Sant'Agostino. Ciao a tutti, sì, ho battuto il mio record che era molto scarso, quindi. Però è vero, sono tre serate che sono in diretta consecutive. Ciao a tutti. L'uomo che ha contribuito a questo grande record con ben 3 ore di streaming consecutivo, Umberto Parisi. Buonasera, salve, 3 ore e 20 circa. Fino a che non lo avete mandato a fanculo, immagino, perché insomma, giustamente, dicevo, come si spegne questo? Però è stato interessante, l'ho seguito anche io, quando abbiamo finito di fare non so cos'altro, però c'era qualcosa pure noi, boh, non mi ricordo. Comunque, salutiamo e ringraziamo anche Walter Sbenus. Buonasera ragazzi e bentrovati, era un po' che non ci sentivamo su questo canale. Infatti sì, e salutiamo anche Carmine, anche detto Puccio, ma soprattutto Console. Ciao ragazzi, facciamo progressi che oggi non sono console anche. Esatto, piano piano, dopo qualche anno ci stiamo normalizzando. Essere console in questo periodo si rischia male, eh? Poi fate come pare. Infatti, ma poi tra l'altro, sì, dopo quanto, 6 anni, 5 anni, insomma, ci siamo imparati che non è console ma è console. Ringraziamo quindi Umberto dai Beceri Videoludici, ricordatevi il suo podcast su Spreaker, ricordatevi il suo canale YouTube e soprattutto ricordatevi il suo canale Twitch, che sta facendo una sperimentazione di live stream, anzi di stream 24h, come se fosse un canale televisivo, manda roba a ripetizione. Quindi andate su Twitch, cercate i Beceri Videoludici, iscrivetevi se ci si iscrive, non so come funziona, ma se volete poi abbonatevi pure, perché giustamente i soldi non fanno schifo a nessuno. Però vedo, sì, quello sicuramente. Vedo che c'è gente che mi scrive non so dove, però non fa niente, salutiamo chi mi scrive non so dove. Non so dove. E invece, vabbè, Walter, cioè, ovviamente OGM tutti i lunedì sera alle 21, sempre su Runtime Radio. Allora ragazzi, vi faccio sentire di che cosa si parla oggi. Nel festival della revisione storica e del politicamente corretto, l'ossessione malsana di Netflix di raccontare storie secondo dei protocolli che sono ben chiari solo all'emittente portano ad episodi sulla storia del videogioco costellata da gay di colore che hanno imposto la propria personalità creando giocatori di football diversamente bianchi e raccontando di videogiochi di cui nessuno ha mai sentito parlare. In questo episodio, al di là di queste assurdità assortite, parleremo di come iScore, il programma di Netflix, racconta la storia del videogioco in questo ennesimo crossover con archeologia videoludica. E l'ho deciso adesso che è un crossover di archeologia videoludica. Ma vabbè, chiaramente l'introduzione è ironica anche, cioè nel senso vuole essere particolarmente ironica. Io voglio partire lasciando un attimo l'opportunità di fare un cappello a Carlo Sant'Agostino e poi dopo in realtà di argomenti da discutere su questa cosa ce ne sono diversi, insomma, quindi vai Carlo. Ti ringrazio Simone. Allora, come ho scritto precedentemente. Ah, scusa Carlo, ti interrompo dal Cibali, scusa, abbi pazienza, lo so che è fastidioso, ma c'è anche Marco Gualdi. Ciao Marco Gualdi. Ciao, forse ci sono, non lo so, Si sente il microfono? Sì, sì, più o meno si sente, insomma. Bene, sono contento. Più o meno però, Vabbè, alla prossima, ciao. Ciao, ciao. Standard. Esatto. Vai Carlo. Grazie, grazie. Allora, stavo dicendo, come ho scritto in precedenza, e come hai accennato tu all'inizio di puntata, questa è la mia terza live in 3 giorni, ho dormito quasi niente, ho un sonno della Madonna, quindi come ho già premesso, probabilmente in questa puntata straparlerò e probabilmente biascicherò, e tu giustamente hai risposto, e che cosa c'è di diverso dal solito? Niente, c'hai ragione, quindi normalmente come sono di solito, quindi perfetto. Data questa doverosa premessa, introduciamo l'argomento. Io all'epoca dell'uscita di Highscore diedi subito dopo la prima puntata, subito dopo aver visto la prima puntata, il giudizio negativo mio, molti lo sanno, mi è piaciuto per niente, e lo dissi subito pubblicamente, e questa scatenò, come prevedibilmente poteva essere, una certa l'ira funesta. Commenti, certo, perché ovviamente c'erano state molte recensioni positive, se cercate su internet ci sono ovviamente pareri discordanti e molti lo definisco bellissimo documentario, eccetera, eccetera. Ma vorrei soffermarmi per questo mio giudizio sulla l'importanza delle definizioni delle parole, perché io già non è che sono, lo sapete, non sono uno che tranquillo tanto sente delle inesattezze in linea generale, no? E quindi spesso sono catalogato, eccolo quello lì che dice che non va bene niente di qua di là di su di giù. Però c'è una cosa che perché poi questo me lo dicono, guarda, ma allora anche nel telefilm tal dei tali, nel film quello c'era l'errore, l'importanza delle parole, delle definizioni. Non stiamo parlando di una qualsiasi fiction, ma stiamo parlando di qualcosa che si definisce documentario. Questo è il punto ed è definito documentario. Sì, sì. Questo è molto diverso, perché a me non dà, se c'è un errore in un film, in un telefilm, eccetera, sì, magari lo faccio notare, ma non mi dà fastidio, non mi dà più di tanto fastidio, lo lasciamo correre, è una fiction. E dove c'è la parola fiction, anche se fosse docu-fiction, esistono le docu-fiction, no? Io ne ho fatta una, lo sapete, docu-fiction. Ma se c'è la parola fiction, vuol dire che c'è invenzione, che c'è storia, c'è narrazione, c'è qualcosa che non è necessariamente la realtà. Se invece io uso la parola documentario o docu-serie, come questa, cioè un documentario in puntate, do per scontato che il documentario dia una visione. Non dico che non possa dare pareri, perché i pareri tutti li possono dare, o ad opinioni, ma la visione deve essere storicamente corretta, o perlomeno ci possono essere delle inesattezze, ma non ci possono essere dei fatti palesemente falsi. Tanto più che stiamo parlando di una produzione non fatta da archeologia informatica, per intenderci, siamo noi. Noi sì, magari facciamo delle belle cose, ma siamo nessuno, siamo piccolini, siamo amatoriali, lo facciamo senza soldi. Ah, come ti permetti, scusa. Ah no, c'hai i soldi tu? Non lo sapevo. No, i soldi no. Cioè, facciamo delle produzioni autoprodotte, per quanto curate ci impegniamo, lo sapete, vi ringrazio per tutti i complimenti che sempre ci fate, ma comunque, come noi tanti altri, ad essere piccoli uno ha i mezzi e soprattutto il tempo che ha. Ma una produzione di questo tipo, finanziata e quindi pagata da Netflix, sentite che sbiascico, ragazzi, non ce la farò mai a dire Netflix. Comunque, da quelli, soldi, diciamo, se è una produzione tripla, se vogliamo vederla come videogioco, ok? Che non mi vada a prendere nemmeno il più scarso dei consulenti per raccontarmi una storia. Un'altra affermazione: io ho visto solo il primo episodio e basta, poi ho smesso. E molti mi dicono: ma dovevi guardare anche gli altri? No, non devo guardare anche gli altri. No, la linea è sempre quella. C'è un famoso detto che dice: cioè, non c'è bisogno di mangiarsi un uovo per sapere che è marcio. E vale la pena, e vale proprio anche per questo motivo. Cioè, io ho visto il primo episodio e come era impostata la serie, come era impostata la storia, quello che dicevano era sbagliato proprio per il fatto di essere un documentario. E tu in un documentario non mi puoi mettere dentro dei fatti inventati. Adesso ne cito uno in particolare, ma poi magari in puntata Simone ne ha segnato qualcun altro e sicuramente li approfondiremo. Cioè, il fatto che quando parlano di Space Invaders mi dicono che Space Invaders creò il famoso yen shortage, cioè la penuria di monetine in Giappone, che con 10 minuti di ricerca, neanche 5 minuti di ricerca su internet, si viene subito a sapere che si tratta di un fattoide, cioè di un'invenzione derivata da un articolo finto fatto negli Stati Uniti all'epoca, che poi è diventata un fattoide, quindi una notizia inventata che non ha nessun fondamento reale. E lì all'interno di questo documentario viene dato come fatto reale. Ma forse l'impostazione del documentario stesso, cioè un qualsiasi ricercatore di storia del videogioco non mi fa la storia del videogioco vista con le paratie agli occhi di solo quello che è successo negli Stati Uniti e un pochettino in Giappone, ma solo della parte del Giappone che è andata negli Stati Uniti. È come se uno facesse, e questo l'hanno scritto su The Verge, una citazione, è come se uno facesse il documentario del cinema con la storia di Hollywood e si dimentica tutto il resto della storia del cinema. Beh, ma l'hanno fatto, francese, esatto, no, ma l'hanno fatto una serie proprio su Sky che è totalmente basata sulla storia di, cioè la storia del cinema è totalmente basata sul cinema americano, fondamentalmente. Esatto, ma non è il cinema americano, non è la storia del cinema, no, è una americano, sì. Il mercato americano non è la storia del videogioco. Ancora insistono con il grande crash del 1983, che appena esci fuori dagli Stati Uniti nessuno al mondo del mercato del videogioco ne ha mai sofferto del crash del 1983. Però guarda, una cosa però l'hanno detta, però in Giappone non l'hanno sentita, è una cosa che hanno detto. Okay, mi perdoniamo allora. No, ma infatti, aspetta, andiamo in ordine, perché poi infatti voglio un attimo anche comunque, il parere di Umberto. Per dare la mia premessa, sì, a questa cosa, cioè io non posso perdonare una trattazione di un documentario in questo modo, per quanto poi sia bello da vedere, ci abbia le belle grafiche, tutto quanto, e poi gente dice, ma figure, cosa vuoi che sia un errore? Cosa vuoi che sia un errore? Allora non stai dando importanza alla storia del videogioco, vuol dire che il videogioco non è così importante, si può dire quel cazzo che si vuole, perché tanto cosa vuoi che sia la storia del videogioco, va bene, allora facciamo la storia della seconda guerra mondiale, ma tanto non è importante, quindi i campi di concentramento non sono esistiti. Beh, questo è quello che più o meno, ma al di là del discorso dei campi di concentramento, è più o meno quello che succede, non in questa politica del revisionismo, no? Che comunque oggi, però prima di passare a Umberto, però volevo concludo e basta. Sì, vai, scusa. Simone, ma io No, vai, scusa, pensavo che avevi concluso, scusa, vai. No, ma brevemente, cioè volevo parlare solo della, non vado fuori del contesto. Parlo solo della storia del videogioco. Questo non è accettabile. E niente, dai, vai avanti, mi hai fatto prendere il filo. No, scusa, più. Scusa. Vabbè, vedrai che vedrai che lo recuperi il filo. No, quello che volevo dire è che io non ho la stessa certezza che hai te, ma ho avuto la percezione di quello che tu dici, cioè guardando le prime 3-4 puntate, poi ho lasciato verde a un certo punto perché c'erano delle cose che mi infastidivano, ma di quelle ne parliamo dopo anche con Walter, perché rientrano un po' in quello che è il discorso di Netflix. A me quello che mi ha dato un po' fastidio, anzi un po' tanto fastidio, è che in questa specie di pseudo mistificazione, diciamo, di questa operazione, gli autori stessi, quindi anche i protagonisti, i personaggi storici, sono comunque prestati a questa fiction, a questa finzione, a raccontare cose che quando le sentivo mi lasciavano un po' perplesso, insomma, senza considerare invece quelli che sono stati inseriti all'interno del documentario sulla base di una rilevanza che è tutta assolutamente soggettiva, cioè nel senso basata su una scelta politica di Netflix da buttarci dentro. In generale ci ho avuto questa sensazione che anche, che ne so, Roberta Williams con Ken Williams raccontassero le cose per come Netflix volesse che loro le raccontassero, capito, insomma. Ecco, questo è un po' il punto, la cosa che ho osservato io, e non so se per te, ma Carlo... questa è la classica voglia di protagonismo degli autori ed è il motivo per cui, in generale, quando tu intervisti i protagonisti dell'epoca devi filtrare quello che loro dicono. Questo sempre nella storia del videogioco e dell'informatica, ma in generale, perché il protagonista tende a vedere la storia dal suo punto di vista ed aumentare la sua importanza. Allora, dando libero sfogo a quello che è il protagonismo dei personaggi, è ovvio che poi si vanno a raccontare i fatti in maniera travisata, e questo è abbastanza normale. Infatti il documentario, in teoria un documentario fatto bene, le interviste le intercala, le controlla con i fatti e fa il cosiddetto quando si fa la domanda cattiva, non mi viene più il termine, ragazzi, così, quando in un'intervista fai la domanda, il contraddittorio. Il contraddittorio. Non fanno il contraddittorio, non c'è contraddittorio in questo documentario, non c'è. Vabbè, uno dice quello sì, che vuole, va tutto bene. Eh sì, non era la loro intenzione. Salutiamo in chat Vargion, Marco, che dice che gli devi da Sganassoni, parlando anche del fatto che Commodore Wars gli dà una pista come come documentario ed equalizzatore, che vabbè, poi tratta di una cosa di cui parleremo dopo. Umberto, invece, la tua opinione sull'opera in sé? Allora, io l'ho vista tutta, perché quando comincio una cosa poi la devo portare fino in fondo. Tendenzialmente anch'io, ma non in questo caso. Ma meglio che per chi non è andato avanti, perché insomma, no, però vabbè, no, forse Carlo non è arrivato ai punti quelli lì più bassi. Diciamo, anche se parte immediatamente con quella signora che fa il torneo di Space Invaders, che anche sti cazzi poi, sempre a dimostrare, capito, la signora che era una ragazza un po' bruttina, non potevo dimostrare la mia femminilità, mi esprimevo attraverso Space Invaders, ma non ci rompete il cazzo, cioè, è veramente triste sta cosa, sì. Però d'altro canto ho potuto apprezzare in alcune occasioni il montaggio, alcune cose, quindi ho continuato a vederlo perché comunque visivamente era piacevole. È un prodotto da 3 su 10 probabilmente dal mio punto di vista. Beh, tecnicamente è realizzato bene, inquadrature interessanti, cioè tiene l'attenzione, cioè, È venuto in mente quello che volevo dire, cioè il fatto che sia realizzato bene per me è ancora una cosa peggio, che dà ancora più negatività, perché vuol dire che hanno speso dei soldi tanti per realizzare bene una cosa, ma non hanno speso soldi per la cosa più importante, cioè per la veridicità dell'informazione e per la narrazione corretta. Quindi in un documentario. È anche vero che è un documentario che si mantiene sul vago in una maniera eccezionale per tutta la... Perché non, cioè, perché, ma perché, perché comunque vago, non dice, il pubblico di destinazione non è l'appassionato di videogame, ragazzi. Scusate, scusate, fermi, stop, se no ci accavalliamo, scusate. Esatto. Dico comunque... Okay. No, finisco io, poi Carlo e poi Umberto, sì, così diamo st'ordine. Cioè, in realtà per Netflix il pubblico di destinazione è sempre un pubblico generalista, quindi è chiaro che l'opera è generalista, cioè, come diciamo, in realtà è molto approssimativo, al di là dei fatti che magari non sono coerenti o concreti, no? Cioè, nel senso, è comunque un'opera che mia moglie, che non sa niente della storia del videogioco, se lo guarda, dice ah vabbè, carino, e se lo continua a guardare perché è girato bene, basta, cioè non è per noi quell'opera. Questo è un altro punto assolutamente negativo, perché va bene, nessuno vieta di fare documentari generalisti, anzi, meglio, per i generalisti, per i documentari essere generalisti va benissimo, così arrivano a tutti. Ma se fai un documentario generalista non vuol dire che devi inventarti delle cose che non esistono, perché quello è il problema, perché allora le certifichi, perché allora le persone che guardano il documentario, se tu vuoi fare, puoi benissimo fare un documentario generalista, loro quel documentario, se noi tiriamo le boiate che hanno detto, diventa un documentario generalista godibile, perfetto. E invece ci hanno messo dentro non si sa perché cose che vabbè, ok, chiaro. Vai, Umberto, scusa, finisci la tua dita. Davvero, ho perso il filo. Boh, ricomincia, dai, che te frega. No, vabbè, a parte quello, ti ho detto, per me il voto è 3 su 10 in linea massima, perché si mantiene sul vago, dice inesattezze, e poi ha la cosa che io non tollero in assoluto, che il punto di vista americocentrico, io non riesco a tollerarlo, scusatemi, è una cosa che io proprio mi fa girare il cazzo. E hai ragione, Esistono solo loro, solo... addirittura quando parla quella di Nintendo, ma non mi viene il nome, Tilden, ma non ricordo, addirittura a insultare i giapponesi, io sono comunque e a insultare i giapponesi io non mi piacevano, quello si voleva licenziare, ma si è fatto come dico io perché sono bravo. Questa cosa, tra l'altro, abbastanza, può essere veritiera, perché è una cosa che ho ritrovato anche in Console Wars, che non so se avete letto il libro, avete avuto modo di leggerlo. Eh sì, no, quella con Bacio, hai ragione, ce l'ho pure io. Sì, è una cosa che... che cosa? Il fatto che sia in... No, stavo ancora pensando a quello che hai detto tu. E poi non sono inesattezze, sono errori proprio. Cioè, se fossero inesattezze ci passerei sopra, non sono inesattezze. Sì, sì, vabbè, sai, quello è un po' una... Capito, il fatto degli Yenek, che volevano dare una nota folcloristica dicendo una stronzata poi alla fine, no? Per dare capito, questa cosa di folklore. Lo so, ma... Cosa cambia? Anzi, potevi dirla e dire anche che era... poteva anche diventare una bella cosa se avessero detto si pensa questa cosa ma non è vera per questo motivo, questo, questo e questo, perché è successo così. Vabbè, comunque americana, capito che il rigore storico non c'è. Finiamo un attimo, ognuno finisca un proprio pensiero, perché sennò poi no, no, vabbè, ma diciamo che ho finito il mio pensiero l'ho espresso. Poi tu Carlo non hai, diciamo, non hai portato a termine la cosa e quindi ti sei risparmiato tanta roba. Sai di che cosa stiamo parlando, perché lo saprai sicuramente, però non l'hai visto, perché se lo vedevi secondo me era peggio, cioè, era peggio sicuro. Sì, e in tutto questo anche Richard Garriott si è prestato alla grande. Alla fine è stata la parte forse più divertente. Sì, sì, quello è il gioco di ruolo. Fatto così. Però poi immediatamente dopo passa alla parte peggio. Immediatamente stai parlando di Richard Garriott, che insomma è abbastanza un personaggio abbastanza notevole, no, nell'ambiente videoludico. E poi notevole in generale. Sì. Allora, però io volevo sentire un attimo il parere di Walter prima di arrivare poi anche a dei punti, insomma, più fastidiosi, perché poi alla fine, ragazzi, cioè, come dice Carlo, giustamente uno può essere rigoroso o non rigoroso e può far contenti o non contenti un determinato pubblico. Poi lasciamo perdere il motivo per cui un emittente come Netflix faccia un'opera del genere. Il problema poi, secondo me, il peggio è anche dopo, perché comunque, vabbè, comunque, Walter. Allora, dunque, io l'ho visto tutto. Ammazzateo. No, ma poi anche praticamente in una sera e mezza con due amici. Sì, perché fortuna so brevi le puntate, sì. Perché speravamo che ogni episodio in realtà non fosse poi, diciamo, morisse qualcuno. No, magari sarebbe stato carino. Diciamo che quello che vuole, insomma. Sapendo gli argomenti che ogni episodio doveva trattare, ci auguravamo che rispetto ad altri cambiasse un punto di vista, soprattutto perché tutti quanti sapevamo, ci aspettavamo che ci potesse essere una narrazione americocentrica, perché è più forte di loro, la raccontano come l'hanno vissuta loro, magari anche uso il termine in buona fede, perché purtroppo buona fede no, fammi mettere gli apici. Ok. Gli americani hanno una difficoltà congenita nel concepire tutto quello che quello che esiste al di fuori del loro mondo, cioè sono particolarmente egocentrici e non hanno né una forte attitudine a studiare la storia né a studiare l'estero. Per loro quello che non succede negli Stati Uniti per molti versi neanche esiste. Speravo che sarebbe stato diverso, perché comunque alla fine è una delle migliaia di produzioni annuali che Netflix si prende in pancia, ma tutto sommato è un prodotto che è stato presentato e realizzato diciamo su commissione, o meglio un'autrice ha proposto questa miniserie a Netflix che ha deciso di produrla. Però immagino che nelle tante serie che loro producono qui non ci fosse chissà quale controllo o quale certificazione, era uno dei tanti contenuti a tema documentaristico appaltati in outsourcing, io ve la sto immaginando così, poi magari non lo è per niente, però me la voglio immaginare così, non che sia una giustificazione. Si è arrivati tra l'altro ad avere, se non ricordo male, più di 20 ore di girato totale della somma dei 6 episodi, che poi sono stati asciugati, inserendo anche dei temi che forse non c'entravano niente con il progetto originale, perché parlare di certe questioni che eludevano completamente la storia del videogioco, il contesto del videogioco, andavano a finire su tematiche sociali, su tematiche gender e altre cose, forse va tanto di moda che lo hanno messo a forza anche lì, perché in più di un episodio ci sono dei rimandi a questioni che non hanno a che fare con la storia di quel tema o di quel videogioco, e tu ti, guardando ti domandi, sì vabbè ok, insisti su questo tema, ma perché? Non, è, non stiamo parlando di questo, non che il tema sia un problema, ma stiamo parlando di videogiochi, perché adesso mi devi raccontare questa o quell'altra storia completamente scollegate da quello, da quello che voglio sentirmi raccontare? No, ma loro uno pseudo contestualizzazione la danno anche, il problema è poi dopo a vedere un attimo i fatti, che volevo poi verificare pure con Carlo, perché poi in realtà io, se certe cose sono successe o non sono successe, o se no, se sono alla luce di un fatto storico legato al mondo dei videogiochi, io questo non lo so, e per questo ho invitato Carlo, che sicuramente è più, e anche Umberto, che conoscono molto di più la storia del videogioco, no? Quello che... Sì. Però Simone, se prendi l'episodio su Gayblade posso essere d'accordo con te, ma su altri episodi determinate questioni a me sono sembrate messe a forza nel racconto, nella narrazione. Ma assolutamente. Ma anche sì, quello secondo me era messa a forza, era messa a forza già de suo, perché comunque... Cioè io... Allora in quel caso però non facevi l'episodio e basta, perché comunque nell'episodio c'era una ragione per enfatizzare il tema, no? Negli altri episodi quando si parla di Pac-Man e mi fai vedere questa questione di body shaming, mi racconti di questa persona che non viveva, diciamo, il suo corpo in maniera serena, allora compensava con i videogiochi e... È un tema importante, però non c'entra con la storia del, no, ma tra l'altro, dei tornei di videogiochi o di Pac-Man, non, di... non sono molto sì, però secondo me quella cosa è anche trattata male, cioè nel senso, cioè io, nel senso, a chi, allora, a parte è che secondo male me perché la inserisci così in maniera razzazzonata, esatto, in un, sì, contesto diverso, no, secondo me sì, perché tu se vuoi parlare di quella cosa ne parli seriamente, alla fine tu stai vedendo un racconto, tra l'altro molto semplificato, molto superficiale, di una persona che fa determinate cose perché compensa alcune sue limitazioni fisiche, quindi i suoi rapporti con le persone, e quello secondo me meritava un approfondimento come tipo di discorso, me lo butti dentro così. Esatto, tanto perché non era nel contesto giusto, il tema era importante. Ma no, fai un altro tipo di serie, secondo, sì, me, esatto, non ci fai un episodio. Ce lo fai un episodio dedicato a quel, diciamo, lato negativo che se potrebbe essere sviluppato. Però serio, però serio, lo tratti seriamente. Però, cioè, quello lo racconti in una serie che parla di aspetti legati al mondo del videogiocatore, non alla storia del videogioco. Secondo me, però vabbè, questo poi andiamo fuori tema pure noi. Chiudo il mio pensiero dicendo: probabilmente uno spettatore comune, e lo dico perché alcuni episodi hanno tratto in inganno anche me, non avendo il background, non conoscendo nei dettagli la storia di quell'argomento, di quell'episodio, in buona fede avrei potuto prenderli per validi e per buoni senza senso critico, ma proprio perché se ti stanno raccontando sotto forma documentaristica un tema, tendi a credere che quello che ti stanno raccontando sia relativamente attendibile e giusto. Poi, guardando quei temi ai quali sono più avvezzo, ad esempio l'episodio che ha fatto molto girare le scatole sia a me che ai miei amici quando l'abbiamo visto, è quello sulla console war, perché era troppo virata al punto di vista americano di tutto questo, quando poi alla fine il grosso della console war si è combattuta anche perché ci sono state tante idee giapponesi alla base, no? Solo che venivano completamente sminuite e veniva evidenziato più l'atteggiamento americano, quindi quello che succedeva sul territorio americano, ma in realtà si stava parlando di prodotti che non erano nati su quel suolo, erano stati importati ed adattati. Vabbè, però questo un po' ce la naturalezza. Questo un po' ce l'aspettiamo, perché come abbiamo detto tante volte pure con Carlo Sant'Agostino, la storia dell'informatica raccontata dagli americani è sostanzialmente diversa dalla storia dell'informatica che dovrebbe essere. Esatto, sì, ma diciamo è questo che poi ha rivelato il più grande punto debole della serie. Cioè, finché tu mi racconti il punto di vista dei coniugi Williams che hanno creato un prodotto loro e quindi hanno il loro punto di vista su qualcosa che hanno creato loro, c'ha un senso. Quando invece poi mi parli della console war e tiri fuori anche nomi come Nintendo e Sega, che sono società fondamentalmente di cultura giapponese, ma li riddeclini secondo il tuo personalissimo punto di vista di americano, allora lì stai andando veramente fuori dal seminato. Ma il problema non è stato parlare, secondo me, della console wars americana, perché effettivamente lì in America si è combattuta e se le sono date. E che non si è contestualizzata, si è resa globale. È che il Giappone non si è praticamente non viene nominato in quella cosa. E l'Europa anche. Ma l'Europa non sa neanche che esiste, non li produce. L'Inghilterra in quegli anni era uno dei più grandi produttori di videogiochi del mondo e così. Giusto per dire, cioè non è che stiamo parlando di Giovanni. C'era Di Nodini, ma quando faceva giochi di calcio non arrivava. Io quando l'ho incontrato sono stato l'uomo più felice del mondo. Comunque, signor Sinclair, comunque, Umberto Puccio, scusa, vai, anche tu sentiamo. Sono riuscito a vederla tutta. Devo dire, prima puntata. Diciamo, non l'ho presa sul personale come Carlo. Ma non è una questione personale, ancora questa storia prendendo in giro. Non l'ho presa sul personale. Ancora questa cosa sul personale vuol dire che gliel'hanno detto in tanti, sta cosa. Porca troia. No, stavo dicendo, mi ha infastidito anche a me la questione del... dello shortage degli yen, che poi tra l'altro sapete un po' come la storia del bambino rapito nel centro commerciale, cioè, in ogni paese la raccontano in una maniera diversa. Non ce l'ho sotto mano, però c'era un libro di Minimum Fax che era uscito un po' di tempo fa, che era praticamente il racconto di un giornalista che non era particolarmente appassionato di videogame, ma che negli anni 70-80 si era intrippato con Space Invader ed era diventato un giocatore semiprofessionista, che racconta come invece da loro mancavano i quarti di dollaro. Pure quella roba, se la vai a ricercare, non è esattamente come la racconta lui, non c'era stata questa carenza drammatica di monetine da quarti di dollaro che impedivano alla gente di utilizzare le... lavatrice a gettoni, la metteva in quella maniera, però probabilmente c'era stata una riduzione delle monete in circolazione, ma lontane da essere percepita dalla gente comune. Esatto. Che ti devo dire, sarà stata non è possibile. Se uno si ferma un attimo a pensare, non puoi pensare che ci sia uno shortage di monete, per prima cosa solo per il fatto che le monete entrano lì ma poi rientrano subito in circolo. Sì, appunto, non è che non spariscono, non vanno in un buco nero. Cioè qui basta la logica. Ragazzi, cioè non è che stiamo parlando, però ragazzi, devo dire l'unica no, ma loro li accumulano le monete, si le tengono nei vetri dei paperoni, si conservano il deposito di zio Paperone di 20 anni. Devo dire, però, in realtà, due puntate, cioè vabbè, a me, parte che la puntata sui giochi di ruolo c'era Richard Garriott, sono contento perché tutto sommato, no, ma pure io era carina, però boh, vabbè, sempre vabbè, vai. Vabbè, lui è un personaggio molto sui generis. Adesso poi, dopo essere stato nello spazio come il padre, ha deciso che esplorerà anche il fondo dell'oceano, è una notizia che ha dato. Ma se non sbaglio l'ha già fatto? Credo che abbia fatto una prima immersione con un battiscafo di profondità, ma dice che vuole fare una roba più lunga, tipo missione. C'hai i soldi. Io la domanda che mi faccio è tutti questi soldi, cioè, perché è vero che è un personaggio importante anche nel mondo dei videogiochi, però in un'era in cui i soldi magari se ne facevano, ha vinto una causa gigantesca con Electronic Arts anni fa, li ha messi a frutto. Perché è anche un investitore particolarmente bravo. C'è il libro suo che, vabbè, parla della sua carriera, delle sue idee come game designer, ma parla anche di lui, dove più o meno sta cosa l'ha raccontata. Cioè, si sapeva che aveva avuto un sacco di soldi quando ha vinto la causa, che tra l'altro c'entravano anche i diritti di Ultima, tutta una serie di altre cose, di Wing Commander. Però poi quei soldi li ha messi a frutto perché comunque ha studiato per diventare, e gli ha detto bene, perché in realtà con Wing Commander ci poteva diventare povero lui e tutte le generazioni dopo, cioè, sì, ma lui la racconta sta storia che solitamente ogni inizio di ciclo di produzione di un nuovo Ultima, di un nuovo Wing Commander, per lui era attraversare il rischio di diventare povero da un momento all'altro. Ma infatti, vabbè, poi dopo, io vorrei fare una puntata con Carlo e magari con chi vuole partecipare sulla Origin. Vuoi fare su Ultima quando vuoi? No, su Ultima c'è Coso che ha scritto il libro. Sì, sì, io di Bergamo. Secondo, sì, li ho presi pure io. Quello di Bergamo, quello lì. Possiamo invitarlo lui tranquillamente in puntata, viene perfetto. Mi ha anche dato dei soldi, ci tengo. Vabbè, fermiamoci su questa cosa del lotto. C'è la puntata, quella sui giochi di combattimento, la quinta fight. Adesso là sono andati a giocare su un campo che io, per tutta una serie di motivi, conoscevo magari un po' meglio di altri sottogeneri. lì non hanno sbagliato tantissimo, nel senso che poi le interviste e quello che dicono più o meno combacia col materiale che poi parliamo di Street Fighter 2 più che della parte Mortal Kombat, che è quella che conosco meglio, combacia poi con tutte le informazioni che si sono avute nel corso degli anni, il libro per i 30 anni della saga di Capcom, più o meno combacia, quindi non hanno detto grandiose stupidate. Il problema è che lì non sono andati a fondo. Perché se vuoi prendere la Street Fighter come argomento, ce n'è di roba da dire, tipo, puoi dire che quello che noi chiamiamo Bison, Vega, il design è preso da una serie famosa giapponese che si chiama Taito Monogatari, puoi dire che quello che noi chiamiamo Barlog, cioè lo spagnolo con gli artigli, a cui, vabbè, sapete che hanno cambiato i nomi tra Oriente e Occidente. Quello che noi chiamiamo Vega. Quello che noi chiamiamo Vega, che in realtà è Barlog, l'hanno preso da un episodio di Ken il Guerriero, che è il primo avversario che incontrano nella terra degli Shura, che ammazza Falco. Cioè, ci sono una serie di rimandi alla cultura pop all'interno di Street Fighter, che nell'episodio si sono cagati tranquillamente. Tutta una serie di roba che poteva renderlo più interessante e non la copia carbone del libro sui 30 anni della saga che ha scritto Capcom. Pazienza. Lì bisogna capire il montaggio finale, chi lo ha deciso, proprio perché, ti ripeto, risulta che ci sono più di 20 ore di girato dei vari episodi, ma che è stato ridotto. Magari fanno la director's cut. Vabbè, no, ma ragazzi, ma in generale, quando tu fai le interviste, ragazzi, tu magari intervisti la persona 4, 5, 6 ore e poi magari quello che... lo so, però hanno scelto di prendere la parte... di sì, quello che gli interessava a loro, certo. Discorso. Sentiamo un attimo, scusate. Una cosa la possiamo dire, secondo me, cioè almeno mio... banalissimo punto di vista. Fate parlare pure Gualdi. Cioè, che a me abbia dato fastidio che ci sia diciamo una superficialità di fondo, vabbè, ok. Però uno, noi la notiamo di più, ma noi non siamo il target per quel prodotto. Quello è un prodotto generalista. E io mi sono sentito un po' come quando, che vi devo dire, da ragazzino mi è capitato di leggere vari libri sulla storia dell'informatica e trovare informazioni che poi, crescendo e leggendo roba più approfondita, ho scoperto essere non del tutto vere, se non autentiche cazzate. Più o meno è quella la sensazione che mi ha dato. La dovevi smettere che... Quaranzulla, però tu, Minchia, veramente. Vi devo dire, in realtà a me non ha dato invece molto fastidio quando sono state toccate le tematiche, diciamo, quelle più sociali, che poteva essere la persona che riusciva a esprimersi più attraverso i videogiochi perché non si accettava fisicamente, piuttosto che altro, perché mi rendo conto di essere in minoranza su questa cosa, non tra noi in generale, però io penso che questi elementi della cultura pop, i videogiochi come i fumetti, la fantascienza, le serie TV, eccetera eccetera, hanno anche fatto da catalizzatore per permettere a persone che non si sono mai sentite, diciamo, tra virgolette, accettate, di fare massa, cioè di trovare un interesse comune che poi li ha messo in comunicazione e ha creato delle reti sociali, ha creato delle amicizie. Il fatto che l'abbiamo trattato in maniera superficiale, più addio, è un prodotto Netflix fatto. Eh no, invece è proprio quello il problema, perché secondo me degrada il fatto che l'abbiano inserito. A me non ha dato fastidio, ma nessuno dà fastidio, il problema è come è inserito di forza. Sì, ma ripeto, ogni volta che si fa sta cosa, cioè io questa obiezione su questo prodotto, sì, ma è ogni volta, ok, ma prima o poi lo devi fare, cioè ogni volta che è inserito di forza è offensivo, perché questo che, cioè, nel senso, la valuto pure io in questo modo, cioè non è che c'è tanto da dire, cioè, no, vabbè, tu lo metti di non forza, è che punto, mo non esageriamo, aumenti le divergenze, aumentano, non convergono, cioè io penso una cosa semplice, che Puccio, e poi voglio parlare un attimo pure con Marco, perché giustamente c'è anche lui. Cioè, secondo me, se io sono una persona con una posizione diversa, no, e vedo un ambiente, quindi una serie TV o un fumetto o un quello che ti pare, dove tu mi inserisci all'interno a gamba tesa un argomento che è pure contestuale, ma è mal contestualizzato, alla fine io, che sono uno reattivo a sta cosa, che sono comunque già, come te posso dire, la vedo già male questa cosa, ti dico, ah, guarda sti maledetti, ci vogliono mettere per forza sta cosa, cioè alla fine secondo me è più controproducente che utile raccontare in questo modo una cosa che va raccontata con il giusto rispetto e col giusto spazio, perché, e qui vengo a Marco, poi ognuno la vede come gli pare. Quando io e Marco ci siamo visti il tizio che lavorava dentro EA Sports e ha detto: io sono nero e di colore, che poi tra l'altro a me la cosa che mi fa incazzare non è tanto il fatto che tu inserisci a forza certi temi, è il fatto che, come avete detto voi, non essendoci un contenzioso, un, non contenzioso, un contraltare, come si dice? Un contrito, esatto, quello lì, un contrito, esatto. Okay. Cioè, questo, una qualsiasi persona, anche sapendo che il mondo dei videogiochi è un mondo di merda, con un sacco di problemi e roba del genere, però arriva un tizio e dice, ah, io sono nero e gay e lavoravo dentro gli esports e nessuno mi faceva fare le cose perché ero nero e gay, e nessuno può rispondere a dire no, guarda, scusa, permettimi, non è vera questa cosa, e magari, cioè, si discute su questo. No, lui è libero di dire qualsiasi cosa in quel momento, no? E dice, siccome che volevo esprimere il mio essere nero e gay, però non potevo farlo con la parte gay perché in un gioco di football non aveva senso, allora mi sono imposto e ho fatto mettere i giocatori di colore all'interno di Madness, Football Madness, John Madness. John, quello là, insomma, no? Madden al massimo. Madden, scusa, Madden. John Madness. Cioè, io e Marco, ok ragazzi, abbiamo trovato un personaggio nuovo. Ok, vabbè, io e Marco, prossimo episodio della cronica di Innsmouth ce l'hai. Vabbè, c'è John Madness. C'è John Madness, esatto. Io e Marco se siamo guardati, Marco, cioè, abbiamo pensato più o meno alla stessa cosa, cioè, ma ho capito, tu sei nero e vuoi far vedere, cioè vuoi fare un codice, cioè, vuoi fare in modo che i giocatori, che sono tutti bianchi anche per una questione di memoria, abbiano un po' più di diversità, e questo in effetti è stata una mossa vincente. E ci sta, ci sta, erano, certo, tutti, erano tutti neri, giocatori, quasi tutti neri, come adesso, i giocatori del football americano. Io sono nero e siccome che ero comunque programmatore, secondo me io potevo riuscirci a fare questa cosa, ci sono riuscito, ma sono anche gay. Sti cazzi, cioè, esatto, sti cazzi, cioè, devi dire che sei gay, cioè, non aggiunge né più né meno a questa cosa. Cioè, il tuo problema era far migliorare un gioco mettendo neri, che in quel modo, in quel momento erano comunque inseriti nel videogioco, anche per una questione tecnica, perché effettivamente un colore in più era un guitar culo, poteva essere un problema, sì, certo, esatto. Però dice: no, però sono gay. Capito? Ma che me frega a me? Cioè, allora dimmi anche che religione sei. A me con quella cosa mi sono caduto le palle a terra proprio con quella scena. No, ma infatti io voglio sapere, Carlo, a te ti risulta questa narrazione? Perché così, no, perché ma io, boh, può essere anche vera, no? Però perché tu... Stavo leggendo i commenti e non vi stavo ascoltando, ragazzi. Ah, bello, grazie, grazie. Veramente. Allora, dopo ci dico. Non l'ha visto quell'episodio del documentario? No. Si è fermato al primo. No, noi stavamo raccontando... La prima puntata si è sentito offeso e non è andato... Esatto. Stavamo raccontando... Mi è venuto in mente quello che volevo dire prima, però vabbè, poi mi ripeti questa cosa. Però era quando mi hanno detto, allora non ti va bene, allora fallo te. Fallo io, cioè uno che ti risponde così non ha la minima idea di cosa voglia dire fare un documentario di questa portata, cioè fallo te, magari io gli posso rispondere, ma se c'hanno i soldi noi lo facciamo pure, non è che... ecco i soldi, bravo. Infatti una cosa che se troviamo un finanziatore lo facciamo, è quello che io ho sempre detto. Incazzare ancora di più è che questi hanno avuto un'occasione d'oro e l'hanno buttata nel cesso, cioè ma questo è dal tuo punto di vista, ci sarebbe stata gente che si sarebbe sperticato, sì, che avrebbe lavorato gratis per fare quel documentario. Però lì, permettimi Carlo, questo lo dico io relativamente, perché poi se ti vai a guardare per esempio il documentario alla fine non ha preso voti alti, o se vai a vedere sia su Rotten Tomatoes, sulle valutazioni, ha preso 3 su 5, 76 su Metacritic, perché pur se è fatto bene c'ha tutte ste minchiate. Andiamo a vedere su Metacritic, vi prego. Cioè, se facevano bene questa cosa, poteva diventare un punto cardine, una cosa... Cioè, io sarei stato felice di consigliare un documentario di questo tipo. Sarei stato l'uomo più contento del mondo se finalmente ci fosse stato qualcosa da dire. Vuoi sapere la storia del videogioco in senso generale, nei massimi livelli, ai massimi... come si dice in genere, vabbè, okay. Guardati questo documentario. Non posso farlo, perché se gli dico di guardare quello, guarda la storia americana con le solite boiate, con tutte le cose che ci siamo detti fino adesso. Ma infatti, quindi, io quello che voglio dire con voi, via, voglio ragionare insieme a voi, partendo da Umberto e poi facendo il giro, no? Il problema di fondo sulla quale io mi scontro quotidianamente, e questo è un problema relativo forte su Netflix, perché Anche le altre, anche gli altri network hanno lo stesso medesimo problema, ma su Netflix questa cosa sta diventando una cosa imbarazzante, dove praticamente questa imposizione del politicamente corretto e quindi il dover integrare a tutti i costi, esatto, a tutti i costi, sta diventando una brutalizzazione, perché, e io lo dico sempre con Vargion scherzando, no? Cioè, a me vedere Artù di colore non mi dà fastidio perché è di colore, mi dà fastidio perché non c'entra un cazzo. Vedere Ginevra che non è che è la sorella di Artù, ma che fa la monaca e che è di colore anche lei, è lesbica. Non c'entra niente. Non c'è un motivo, non c'è un senso. Non fa un favore, non fa un servizio. È solo merda. Questo è. Sì, sono d'accordo. Vabbè, ma finché si tratta di fiction, ti ho detto. Ma no, il problema è che loro hanno applicato lo stesso principio della fiction in un documentario. E questo è il problema. Questo è un problema forte, però. Questo è vero. È una docu-fiction questa, comunque. Sì. Magari fosse docu-fiction, docu-serie, se non docu-fiction, è pubblicizzato come documentario. Manca solo mockumentary e poi abbiamo detto tutto. Ma anche lì magari, perché, con le varie declinazioni. Lo so, Umberto. No, ma... Infatti a me piacerebbe, tutti voi siete etero, no? Siete bianchi. Quindi non posso. Non me lo ricordo, non questo, mi pare di sì. Io, voi state continuando a parlare di questa storia di etero. Non mi interessa. Quella posso lo so che, e lo so, no, sì. Vabbè, ma stiamo parlando di questa cosa qui. Adesso un attimo. Ho capito, ma quella non è una cosa che di fatti avvenuti o non avvenuti. Il problema sono le balle che dicono e la storia raccontata male. Sì, questo sì, vabbè, però questa. Ok, questa quello l'abbiamo assodato. Cioè, quello oramai è concentrato. Abbiamo capito. È così per tutti, e 100% siamo d'accordo unanimemente. Però il problema di fondo è che nella mistificazione hanno inserito degli elementi che, tra l'altro, secondo me, non so se quanto storicamente siano attendibili, cioè, perché... E quello non lo so, che elemento... Stavo raccontando, quando tu leggevi la chat, giustamente, stavo raccontando del tizio di colore che dentro Electronics Art ha imposto, diciamo, il fatto che i giocatori non fossero solo bianchi. Il modo per fare una cosa, esatto, che non si poteva fare, cioè mettere i giocatori neri, esatto, e questo, che poi... Se la storia fosse vera, è anche nobile come mi cosa. Mi sembra una stronzata, anche perché mi ricordo bene videogiochi arcade di calcio, per esempio, negli anni 70, che c'erano i giocatori neri dentro, quindi non mi sembra una cosa detta così. Vabbè, però in Europa, no. Arcade. Vabbè, magari sono giapponesi, anzi, però va bene. Lui parlava della famosa serie Madness. Così mi sembra molto strana, devo guardare, però sì, mi sembra veramente strano che non ci siano stati. No, ecco, già mi viene in mente, One on One, Electronic Arts. One on One era Larry Bird e come si chiama quello nero che giocava a basket? Kalim Abdul-Jabbar. Dottor Julius Irving. Irving. E quindi cosa stiamo dicendo? Electronic Arts 1983, 84. Ce l'avevo su Atari, no, su Commodore 64. Quindi. Commodore 64 e Apple 2, quindi già quello lo smentisce. Già John Madden, però, è pure di Electronic Arts. Non ricordo di che. No, però, aspetta, insieme. Scusate, permettetemi di contestualizzare bene. Dopo, lui dice una cosa che potenzialmente è corretta: il fatto che nei giochi sportivi per PC. All'epoca, siccome che c'erano tanti giocatori, erano tanti sprite, questi sprite erano tendenzialmente tutti uguali. Okay? Non è vero, perché avevo appena detto che in 101 Electronic Arts c'era erano due personaggi. Lui parlava dei giochi di squadra. Cioè, dove praticamente c'erano 15 giocatori per squadra, e quindi tutti questi sprite, loro invece di fare cose diverse, prendevano e mettevano uno sprite standardizzato. Inizialmente era così, pure su FIFA era così ai primi tempi, cioè non è che poi dopo piano piano ovviamente la cosa è evoluta e insomma sono cominciate a inserire le varie differenze. Questo sostiene che lui aveva questa esigenza, questo suo desiderio, e quindi da programmatore ha inserito sti giocatori di colore. A me In John Madden Football, esatto. A me mi sembra una stronzata, ma poi lui conclude dicendo: e in tutto questo io sono gay. E sti cazzi. cioè, capito? Nel senso, sì, ho capito, ma quello può dirlo, cioè, non è che mi lo può dire, però... ma non, che cosa mi aggiungi? È come se tu dici: io ho la barba, per me, cioè, io... quello è il problema, che non interessa a nessuno. Io ho la barba, Carlo. Sai qual è il nodo? Che probabilmente se tu vedessi gli episodi che non hai visto, ti renderesti conto quanto nell'economia del racconto questa cosa sia stata preponderante. Sì, esatto, perché... può essere sicuramente, però, sai, io sei rifiutato, quindi. Sono vulcaniano, quindi guardo solo le cose sbagliate dal punto di vista storico. Il resto è. Vabbè, tu sei vulcaniano, quello è gay, qui se ne esce più, insomma. Sì, comunque cioè, voglio dire, se c'è qualcuno che ci ascolta, anche che sia gay, che sia lesbo, quello che sia, io vorrei sapere cosa ne pensa. Esatto, io, sì. Questa cosa ammessa così, io la troverei offensiva. Sì, sì, ma infatti. Però la troverei, nel senso che mi sto immedesimando in una cosa che non posso confermare. Però ecco perché mi piacerebbe sapere cosa ne pensano. Ma cioè, guarda che offende comunque la mia sensibilità in generale, anche se non sono gay. Cioè, nel senso, ma anche se fossi una lesbica o se fossi di colore, io comunque che ho una mia visione ideologica particolare, ti dico, quella cosa è offensiva. Ma è offensivo il modo in cui queste cose vengono inserite poi nel mondo dei videogiochi, come se tra tutti i mondi, per quanti problemi ci possano essere nel mondo dello sviluppo dei videogiochi, ne abbiamo discusso in tante altre situazioni, desindacalizzazioni, orari di lavoro massacranti, che ne so, abusi sul lavoro e quello che cazzo volete, però su tutti i mondi pare che il mondo dei videogiochi sia il mondo più razzista nei confronti dei gay e di quelli di colore. Non è vero, ma figurati. No, ma neanche c'ho questa percezione per come viene raccontato. Il fatto che magari noi seguiamo un po' più di notizie su questo ambito e ci capita di parlarne più spesso, ma ti assicuro che discussioni molto simili, se non peggiori, si fanno normalmente nell'ambito dei fumetti americani. Adesso si comincia a farli anche su quelli giapponesi, che, diciamo così, hanno avuto un grado di tolleranza alle cazzate, tra virgolette. Ragazzi, sono appena andato a cercare una cosa che mi era venuta in mente e ci ho pensato. TV Sport Football è precedente a John Madden e ha giocatori di colore. Non solo, c'è anche nel pubblico, si vedono persone di colore, persone bianche, eccetera. Sì, sì, ma è chiaro, ma è chiaro che è una mistificazione. È della Cinema War, sì, americana, sì. Comunque. Sempre per il fatto delle due cose parziali. Intanto ho ritrovato il libro, quello di Martin Amis, L'invasione degli Space Invaders, quello che parlava della crisi delle monetine a New York. Parlando di documentari, averlo perso. No, comunque stavo dicendo, scusate, okay. In parentesi, se stesse discussioni, è bello che non mi sentite, a livello diverso in tantissimi altri ambiti più o meno di cultura pop. A me capita di sentirle nell'ambito dei fumetti americani, perlomeno quelli che seguo io. Ora si comincia a parlarne anche su quelli di origine asiatica, sui manga giapponesi, che oggettivamente hanno un problema di rappresentazione in alcuni casi abbastanza evidente. Cioè, in quelli mainstream c'era una spiegazione fatta da una persona che ora è piuttosto assai imparziale, che diceva: la rappresentazione delle figure dei ragazzi omosessuali nei manga mainstream giapponesi è sempre stata al limite della caricatura. Ora si comincia ad avere un'attenzione, anche perché alcuni di loro sono diventati autori, che è diversa, viene data una rappresentazione più realistica. Il problema è che i lettori, la massa dei lettori giapponesi, sta cosa l'accetta poco, perché vuole la macchietta, vuole quello con le piume di struzzo, perché sono stati abituati a percepirla in quella maniera e a considerare quella rappresentazione lecita. Tentare un cambiamento di approccio è una cosa che richiede tempo, e che in un pubblico particolarmente radicalizzato come quello dei videogiochi, dei fumetti, delle serie TV, perlomeno quelle storiche, è anche difficile da far digerire. Quindi ogni cosa è o appare forzata agli occhi di molti, però se in qualche modo non inizi a parlarne, rimani fermo lì. No, sono assolutamente in disaccordo con te, non me ne frega un cazzo. Ma perché non riguarda noi alla fine? Perché alla fine... Ma noi fatemi finire che ogni volta che gli propongo ti va di venire a fare due chiacchiere su sta cosa, che è un mio amico a livelli più o meno nerdici miei, transgender, che ogni volta mi dice no, perché cercare di spiegare sta cosa fuori dal nostro... Vabbè, nostro che ti devo dire, hai capito tutto tu e non abbiamo capito niente. Vabbè, ma che c'entra, no, scusa, dai, è questa la risposta che ti devo dare, cioè hai capito tutto tu hai la risposta, allora noi stiamo zitti, cioè, voglio dire, no, è semplicemente a me, no, ma tu mi stai dando mi stai dicendo che praticamente io, perché non lo so, tu che non lo sei lo puoi capire, no, perché hai la magia, fammi capire, cioè, io per non lo capivo fino a quando, per questioni di amicizie personali con persone che fanno parte di comunità diverse dalle mie, mi è stata presentata in un'ottica diversa. Io ti sto presentando un'ottica, non avendo nulla contro queste persone, io personalmente, io ti presento un'ottica ragionata, non ti sto cioè una cosa a cui ho pensato, non ti sto presentando la diceria da bar. Ma io però scusate. A volte la cosa la trovo imbarazzante e io in quella cosa non c'entro niente, perché non appartengo alla categoria. Francesca, trovo abbastanza imbarazzante anche lì alcune cose che si sono viste in ultimi anni, poi trova forzature, però ti dice, in questo io riesco più o meno a darle ragione, perché perlomeno nell'ottica in cui me l'ha presentata lei, ogni cosa sembra una forzatura fino a quando pian piano non si trova il sistema di renderla meno forzata, più naturale e a contestualizzarla meglio all'interno di ma opera, è questo il problema dei canali come Netflix, cioè, non farla proprio mai, fermarsi per dire no, così mi sembrerà una forzatura, vuol dire non provarci nemmeno. Guardate ragazzi, scusate, fermi, io auspico di farlo, puoi anche decidere di farlo, però lo devi contestualizzare bene, a quel punto non deve essere una macchietta, perché sennò torniamo alle macchiette, no ma infatti ragazzi, cioè, ovviamente se avessero anche una forma di consulenza diversa su sta cosa, perché molto spesso c'è, cioè, l'altra cosa che su cui effettivamente ho addrizzato le orecchie è stato quando lei mi ha raccontato il problema, che se tu la situazione tra virgolette mia la fai raccontare a una persona che non l'ha vissuta, che la sa per interposta persona, o non chiedi tra virgolette una consulenza a chi potrebbe spiegartelo meglio, i risultati che ottieni sono quelli lì, e molto spesso l'effetto è quello, lo dobbiamo raccontare ma non sappiamo come farlo perché nessuno ci ha spiegato la situazione com'è. Allora non lo raccontare, cioè, perché secondo me una cosa la deve raccontare chi è in prima persona, in prima linea su un certo tipo di discorso, e comunque io auspico una televisione, un mondo in generale dove non ci sia bisogno di parlarne di sta roba, ma non perché non bisogna parlarne, perché che schifo, ma perché proprio, cioè, tutto dovrebbe essere così tanto naturale, dove una persona che sta lì fa un lavoro perché è quello, ma non perché c'ha i baffi o perché è pelato o perché è basso o perché è gay o perché è transgender. Semplicemente questo è il discorso, cioè, ma a questo penso che sia una cosa ovvia, e vedere un canale televisivo che inserisce a calci in culo determinati argomenti solo perché li deve inserire, secondo me diventa una schizofrenia, un'isteria, anzi, cioè un'isteria ideologica che alla fine crea una contrapposizione ulteriormente, perché la gente che non è tanto simpatizzante per una cosa, a forza di vedere questi atteggiamenti, dice: ah, vedi, a lobby LGBT, vaffanculo, dovete morire tutti. Perché questo è quello che succede. Ma infatti questo, volevo arrivare anche a questo, che poi il risultato è questo, di allontanare, non di sensibilizzare, chi ha ragione, ha torto, a me mi dà fastidio, intelligenza, la pensa o è contro a questa cosa. Cioè, tu ragazzi, abbiamo fatto questa stessa discussione un'altra sera, è lo stesso motivo per cui io sono vegetariano, lo sapete, no? E io odio chi rompe i coglioni a chi mangia la carne. Okay? Vegetariano, non vegano. Sì, vabbè. No, lascia perdere. È a livello precedente, sì. Ma non è quello il problema. Il problema è che io non ti rompo i coglioni. A massimo te ne parlo. Sì, okay? Sì, certo. Ma se io ti rompo i coglioni, io ti sto allontanando, certo, da dove voglio portarti. È questo che ti dico. Infatti, secondo me è la stessa cosa. Comunque, il problema c'è anche che, diciamo, la comunità LGBT la trattano come mercato più che come obiettivo. È per questo. Cioè, ma Netflix stesso lo fa, questo discorso. È il problema, che spesso, cioè, è un discorso politico, ragazzi. Per raccontare i problemi delle donne è un uomo. Che cazzo ne sai? Sei mai stato discriminato in quanto donna sul posto di lavoro? No. Lo so, però ragazzi, cioè, poi questa roba, dal punto di vista diverso, di queste cose ne abbiamo parlato anche in tantissime altre trasmissioni, perché poi alla fine ne abbiamo parlato pure su Dannazio Memoria, cioè alla fine comunque abbiamo visto che questi meccanismi innescano degli ulteriori meccanismi che stanno creando veramente una barbarizzazione delle opere artistiche in sé. quindi cioè, diventa proprio un problema oggettivamente oggi. Comunque, torniamo un attimo alla storia dei videogiochi. Se voi avete da suggerire delle opere su televisione o su YouTube o su DVD che possano essere considerati dei buoni documentari sulla storia del videogioco, Carlo. Non ne ho mai visto uno. Mazzalo. Neanche la storia di Atari su Amazon, Carlo. Ah no, scusate, allora, non sono fuso stoggi. Ma lo vuoi fare incazzare? Scusate, ragazzi. Di portarlo a ebollizione. No, anzi, scusatemi perché ho detto una stronzata, perché stavo pensando alla storia generale del videogioco, non a documentari specifici. Ah, sì, i documentari specifici ce ne sono tanti belli, e quello di Atari è uno di quelli, e anche l'altro sulla Commodore è fatto molto bene. E sono ottimi. Io stavo pensando. Storia del videogioco del globale, che del è globale. L'argomento di questa puntata. Sì. Se un documentario bello che racconti la storia del videogioco in senso macro, non sono mai riuscito a trovarlo. Infatti, quando è uscito questo era una delle mie aspettative. Cioè, se finalmente c'era qualcosa che potesse servire come opera introduttiva, no? Alla storia del videogioco. Perché se invece vado a cercare documentari verticali, specifici, ce ne sono tantissimi, anche uno su Nibbler, me ne ricordo uno molto bello che ho visto qualche tempo fa, quelli citati di Atari, eccetera. Ma quando vai nello specifico è anche più facile, perché ti concentri, certo. Ed è fatto probabilmente da appassionati che, certo, quella storia l'hanno voluta raccontare in qualche modo. Esatto, okay? Sono d'accordo. E quindi è molto anche più facile che il documentario sia curato. Il problema è sul documentario generico, quello per la massa. Il documentario per la massa. Il documentario per la massa, e anziché farlo bene, lo fanno così, come per dire: sì, ma tanto stiamo parlando di videogiochi. Di cazzo, sì, è vero, cioè, bravo. Su questo non mi interessa vendere, basta. Bravo. Quindi ci metto le cosine belle, gli spari pim pum pam e poi via. Le inquadrature fatte come si deve e via. Sì, no, ma io ce l'ho pure la stessa sensazione. Infatti, è vero che parlare di una storia vasta è anche complicato, no? E quindi c'è il rischio che una qualsiasi opera potenzialmente rischi di diventare approssimativa. Nel senso che cosa ci voleva di più per farlo bello? Questo poco di più ci voleva qualche consulente che ti dicesse semplicemente, che andasse a fare un minimo di ricerca se non lo sapeva quando si parlava di un determinato argomento, che facesse un minimo di contraddittorio sulle dichiarazioni delle persone, poi potevano lasciare tutto così com'era e mettere solamente in chiaro quando stavano dicendo una notizia se era veritiera, se non era veritiera, raccontarla in modo corretto, punto e basta. Non era un grande sforzo in più, è anche questo che mi fa incazzare, perché questi qua non ci hanno neanche pensato a farlo, non gliene poteva fregare di meno, non gliene poteva fregare niente, allora gli interessava fare una cosa che vendeva, che guardavano, che era bella, con le sigle belle in pixel art e tutti bello, perché da quel punto di vista tanto di cappello. Foto glamour di Romero e Carmack nella puntata sul 3D. Comunque questo è per dire il concetto. E purtroppo in tutti gli anni in cui mi sono messo a vedere un documentario generalista, e c'è sempre questa tendenza qui, questa metodologia qui, e non si affronta in maniera corretta. Scusa Umberto, sì Umberto, scusa Carlo, secondo te, no, tu adesso pubblicamente lo diresti che Sant'Agostino, Parisi, Pizzi si candidano, e Raccuglia pure, perché giustamente serve anche il tecnico, no, giustamente, si candidano ufficialmente per fare la storia del videogioco? Sì, assolutamente, vai. Facciamo un bel Eppela. Devi fare la versione video di archeologia videoludica. Tu ci scherzi. Parte di archeologia informatica, e non devi parlare di oscilloscopi. Importante. No, dove finalmente si parla dell'oscilloscopio, bene. Scusami. No, ma io non parlo, io faccio montaggio e regia, Alex fa tutta la parte tecnica. E gli oscilloscopi. Sant'Agostino fa la parte redazionale, Davide Gatti fa... pure Umberto fa le musiche, vedi, cazzo, no raga, quando ci sto io le musiche le faccio io, sono... sta tutti buoni, se lo vedo. No, perché c'era la famosa No Bungalow. Madonna ragazzi, vabbè, poi ascoltatevi la puntata di ieri sera che è spettacolare. E Walter, tu l'hai visto un documentario sulla storia dell'informatica, anche magari segmentata, cioè, o magari specifica, che ti è piaciuto? Ma sul tema in maniera un po' più orizzontale, alcuni sì, quelli verticali sì, quelli orizzontali che raccontino la storia del videogioco in maniera più ampia no, però un consiglio ve lo do lo stesso, è una serie animata giapponese. Quindi è vista da un punto di vista assolutamente attendibile. Si chiama High Score Girl. È una serie che trovate su Netflix. Che schifezza. No, ma dai. No. Vabbè, pizzi. Io non alzo le mani. Datemele a fanculo. Vabbè, ma scusa, però tu devi essere più tollerante verso le persone. Scusa, vai, Walter. Intanto il consiglio è di vederla in lingua originale, perché nella traduzione si sono persi dei sensi storici sui videogiochi. Vabbè, ma io non la capisco la lingua originale. PC Engine TurboGrafx-16, che non si può sentire. No, anche lì si sono dimenticati dell'Europa. Praticamente, vabbè, no, quella serie, è giapponese centrica, perché parla di, un ragazzo appassionato di coin op e di console a cavallo tra gli anni 90 e 2000, che passa tutto il suo tempo libero a giocare ai vari videogiochi che vanno di moda di volta in volta, e in una trama adolescenziale di storie di incontri, di scontri, di amori adolescenziali eccetera, però si racconta tutto sfruttando come background tutta una serie di videogiochi dell'epoca, e tutto quello che è stato realizzato utilizzando riferimenti di videogiochi originali, con ovviamente tutti i dovuti crediti e con le autorizzazioni di tutte le varie software house citate. E quindi comunque viene raccontato un piccolo spaccato che ti fa avvicinare alla cultura del videogioco, alla cultura del videogioco vista dai giapponesi, e ad una serie di giochi che prevalentemente sono i picchiaduro, perché comunque era la passione dei protagonisti, però alle volte si racconta anche di qualcos'altro, qualche piccolo cenno della storia di tanti videogiochi a cavallo delle generazioni degli 8 e dei 16 bit e i primi barlumi dei 32, perché appunto la storia si accavalla tra i 90 e i primi 2000. Vabbè, a te è piaciuto, io non l'ho mangiato. L'ho trovata divertente. Non è un documentario. Allora, no, l'ho detto, certo. non ha una validità. Vabbè, lui diceva se vi piacciono i manga. Che un cartone animato ha più validità dal punto di vista del racconto storico di un documentario, vuol dire tanto. Vuol dire che fa schifo quello di Netflix. Quello perché ha la cura che c'è dietro è derivata dal fatto che chi ha trattato l'argomento ha trattato da un punto di vista senza aggiungerci altro, ma anche senza decontestualizzarlo. Parla di videogiochi giapponesi per le nuove generazioni, probabilmente di ragazzi giapponesi, e poi in realtà è un prodotto divertente a livello globale, tant'è che è un original Netflix, perché comunque nel mondo l'ha distribuito Netflix. Allora, quindi strano che non c'è. Però non puoi dire che sia un bel cartone, è bello per noi che siamo appassionati. Sì, probabilmente il gioco qui, il gioco lì, però dai, però noi stiamo parlando di per sé. No, è una cosa banale, non è una cosa banane proprio. Vabbè, a me fanno schifo i cartoni giapponesi, quindi non faccio testa. No, vabbè, tu sei a priori. Io so il priore. Voglio vedere Ghost in the Shell a forza, tipo cura Ludovico. No, e Gualdi, con gli occhi dilatati. Ti assicuro che Marco Gualdi, qui testimone, ci ha provato in mille modi a farmi vedere svariati film di Ghost in the Shell. Sì, ma non legato a una poltrona con i ganci alle mani. No, però Ghost in the Shell l'ha visto, ha visto anche il 2. Esatto. Ma facciamogli vedere Akira, allora vediamo che Akira succede. L'ho visto, vabbè, Akira l'ho visto, vabbè, Akira è un'altra roba, ragazzi, cioè nel senso è un'altra storia. Ti facciamo vedere i quattro film di Evangelion, che il 4 è uscito mo, i tre l'ho visti, i tre l'ho visti con sempre con Pizzi, guarda le cose, io le guardo le cose, poi mi fanno schifo, vuole dimenticare, mentre le guarda bestemmia, per cui io sapete quello che sapete quello che penso di Shinji, insomma, quindi però lasciamo perdere, lo pensiamo tutti, anche chi apprezza, okay. Shinji è quello che pensi, non è che altro, c'è poco da fare. Puccio, suggerisci tu qualche documentario? Signore maledetto, no, documentari anche libri, dato che tu sei l'uomo dei libri, esatto. Ma manco me vengono in mente, esatto. Cioè, il problema è quello, cioè, non penso ci siano a questo punto. Se ci sono, fan cagare. Dobbiamo provvedere a questa cosa. Quello sulla la storia dell'Atari, anche perché poi c'è delle star di un certo livello alla fine. The Fate of Atari e Commodore Wars sono carini. Ricordiamo che Wallister purtroppo è appena mancato da poco. Sì. quindi ricordiamolo, è purtroppo... Covid o un poverino? No, aveva una malattia da lungo tempo e è mancato quest'anno. Una brutta storia. Sì, mi sa che lo scriveva Marco all'inizio della chat. Marco che è entrato nella chat di Telegram e poi è uscito subito, quindi salutiamo Marco. Ciao Marco, rientra. E tra l'altro c'è Marble Madness che dice che lui porta i caffè se facciamo il documentario. Ragazzi, lo sapete, per me sarebbe... Però in Italia secondo me non troveremo mai i fondi per fare cose del genere, insomma, anche perché noi inizialmente... No, te lo devi autoprodurre, non c'è verso. Sì, è bello, un po' di tempo fa si parlava di fare un documentario breve su Simulmondo. Poi è andato su Simulmondo io ho tutti i contatti eccetera. Adesso c'è anche stato un ragazzo che ha scritto un articolo recente, purtroppo ha scritto un po' una boiata perché ha scritto la prima software house italiana, che non è la prima, però fa niente, perdoniamolo. Sicuramente è stata scusa se per lui lo perdoni e Netflix non la perdoni, ecco. E quindi ci sono sia le persone sia i contenuti sia, ed è, sarebbe molto possibile farlo, e se non l'hanno fatto di quello non so cos'altro si potrebbe fare qua in Italia, francamente. Va bene, ci pensiamo, perché noi delle idee ce l'abbiamo sempre avute, abbiamo provato anche a fare delle cose, poi vedete che su archeologia videoludica, sì, archeologia informatica, comunque sul canale noi pubblichiamo interviste fatte così come potrebbero anche essere inserite all'interno di un documentario, quindi in realtà noi il background ce l'avremmo anche, no? E quello che ci manca è l'organicità, ecco, diciamo, perché per fare una cosa del genere significa che tu per un mese della tua vita fai solo quello e chiamasi i soldi al posto di andare a lavorare. Esatto, i soldi, bravo. Di Netflix ci mancano, cioè, soldi un mese secondo me allunga, ragazzi, io non posso smettere di lavorare per un mese, c'ho due moglie e due figli. No, ma con i soldi, è quello che dico, cioè nel senso comunque, esatto. Vuol dire con una produzione, con dei soldi, con dei tempi organizzati e concentrati, tra virgolette, diciamo un mese della tua vita che deve essere retribuito, perché chiaramente non puoi assolutamente perdere il terreno con la tua esistenza, bisogna farlo. Vabbè, dai, comunque, Puccio, quindi... Ma il prossimo che finiscono di pagare il mutuo, forse... Ma secondo me in un mese sei lontano dalla fine per fare una cosa. No, infatti un mese non basta, diceva Simone un mese, ma in realtà non è vero. Sì, vabbè. Una cosa così ci vuole per fare il documentario sulle software house italiane, ragazzi, un mese è più che sufficiente, insomma, diciamoci la verità. Non... Che cosa? No, ho detto per fare un documentario sulle software house italiane è sufficiente. Ah, tu volevi fare sulle software house italiane? Sì, perché io sono un uomo realistico. In generale, sulla storia del videogioco. Ecco, perché sono un uomo. Perdi un po' di tempo sulla milestone perché fanno roba che non capiamo, cioè giochi di macchine, però. No, di moto, che di macchine? Di moto, non so, di moto. Io SB Game lo giocavo, però, dai. No. Ragazzi, nessuno si ricorda della mitica Rainbow. Intervistiamo Bucella, chiudiamo lì. A posto, allora stiamo a posto. Vabbè, ragazzi, io direi che facciamo un sarebbe Pessino che ha fatto 1804. Non so, qualcuno c'è. Non è una software house italiana che gliel'ha prodotto. Poi richiamiamo pure Bittanti che dice: Bittanti, ti ricordi quell'intervista che abbiamo fatto? La dobbiamo rifare, la dobbiamo riaggiornare. Certo, ormai a Milano, quindi lo andiamo a prendere. Ah, meno male, grande, grande Bittanti. Va bene. Tanto Pizzi ti fa le riprese, ma poi non le pubblica. E aspetta, oggi io e Carlo abbiamo ricominciato oggi a lavorare sui video. Oggi, pensa, oggi. Sì, purtroppo il tempo è quello che è, non è che possiamo. È vero che discutiamo di mille cose, ma no, è vero che avevamo iniziato a pubblicare costantemente. Ne facciamo 500, non ce la facciamo. No, il problema è che noi avevamo iniziato a pubblicare i video costantemente e devo dire che ci rendevamo conto da soli che sarebbe stato irrealistico mantenere quel tipo di ritmo lì. Sì. Poi è vero che ci siamo fermati oltremodo, più di quello che è dovuto, insomma, perché comunque, vabbè, ragazzi, d'altronde stanno in sacco di cazzi, insomma, in mezzo. È inutile che ve lo sto raccontando. Però oggi abbiamo ricominciato, oggi abbiamo messo il paletto, io e lui siamo messi seduti virtualmente, pam, abbiamo messo la bandiera, da qua ripartiamo, quindi ripartiamo. Presto usciranno cose, insomma, quelle che devono uscire, poi che stanno lì ferme da 3 anni. No, Simone, però tu a riguardo ancora di questo documentario, oggi mi dicevi di un argomento, che di una puntata che io non avevo visto, del tizio che ha fatto il videogioco che ha perso i... Allora sì, c'era quel famoso, cioè c'è questa puntata, Marco, tu c'hai l'articolo, mi sa, te l'ho linkato oggi, la storia di Keyblade, esatto, di questo ragazzo, sembra che esista, Vizio, sai che esiste, davvero. Pare che esiste, sì, poi alla fine io ho pensato male, ma in realtà pare che esiste sto gioco. Che fondamentalmente non interessa a nessuno, però visto che l'hanno raccontata, raccontiamola. Ha trovato una copia funzionante che è stata poi donata al, anche, è stata fatta pervenire anche a Ryan Best, e pare che poi sia stato realizzato un emulatore che lo riproduce, quindi ha detto che è sta merda, vabbè, comunque dai, vai, scusa, vai, diciamo che hanno ritrovato questa cosa alla comunità LGBT e poi l'hanno messo su internet e l'hanno dato a Best, però allora non è aspetta, un gioco, un videogioco hanno trovato, allora aspetta, hanno ritrovato questo Keyblade, perché cercava un videogioco che lui aveva fatto negli anni 80. Allora no, aspetti, fermi, no, 90, allora è un gioco del 92. Fermi tutti, perché in tre persone non state a dare un po' organicità a questa cosa. Allora, mo passo la parola a Marco, però c'è una puntata di un tizio che dice di aver prodotto il primo videogioco di ruolo con ambientazioni LGBT. Ok, quindi con tematiche omosessuali e via dicendo, che però non è mai stato prodotto perché era gay. Ok, quindi non lo volevano. E che anno è? Aspetta, 92. Aspetta, fammi finire. Fammi finire, Gribbio. Sì, vai. La cosa bella è che questo qua dice a un certo punto nel documentario. Dice che lui però non può dimostrare inizialmente, poi pare che invece sia stato trovato sto gioco, che lui non può dimostrare di aver sviluppato questo gioco perché ogni copia di questo gioco è andata perduta. E a quanto pare, anche cercando su Wikipedia, insomma in giro, in effetti sto videogioco è andato perduto, però qualcuno ne è riuscito a recuperare una copia che non aveva neanche il produttore, cioè l'autore, insomma, no? Che è sto Keyblade, come si chiama il gioco? Keyblade del 92. Del 92. Che il, appunto, creato questo Ryan Best, anche se in realtà non è proprio il primo gioco, diciamo, a carattere con tematiche. Che non è il primo. 92, no, non che l'abbia detto che era il primo, cioè ha detto che se l'era perso più che altro. No, lui ha detto che era il primo, lui dice che è il primo nella puntata, quindi comunque in ogni caso è il secondo. Vabbè, insomma, ma non è neanche il secondo, ma cosa state dicendo? Allora, qua proprio la storia del videogioco non... Ma basta un 5 minuti di ricerca su Google. Vabbè, ma non ti devi incazzare, devi stare calmo. Protagonisti gay o che parlano di gay e di lesbiche o anche protagonisti gay risalgono agli anni 80. Ma ci stanno pure le avventure testuali della Infocom, che tipo... Ma sì, Moon Mist dell'86, che aveva della Infocom Adventure con dentro la tizia fantasma bisessuale. Ma guarda, Carlo, ti passo la pagina di Wikipedia, così la correggi. Stronzi, scrivono le puttane. Sti maledetti stronzi. Cioè, ma comunque, correggere Wikipedia dovrei perdere la mia vita, perché vuol dire stare tutti i giorni a correggere. Vabbè, ragazzi, io conosco quei poveri giapponesi che sono stati una cosa, ecco, magari leggevano le pagine di Gundam. Dico una cosa che dico spesso quando mi dicono questa cosa. Allora tu, visto che sai questa cosa, no, mi dicono vai a correggere la pagina di Wikipedia, e io no. Perché se vado a correggere la pagina di Wikipedia, in quel caso, correggo un errore, ma creo la falsa percezione che Wikipedia sia sempre esatta. Preferisco che far capire alla gente di non fidarsi di Wikipedia e di prenderla come punto di partenza. E quello che c'è scritto magari andare a controllare. Sì, questo io lo dico sempre. Il problema è che la gente non fa così, prende per buono. Ma io dico quello che si dovrebbe fare, poi dopo... Altrimenti creiamo poi i mostri che creiamo. Ho capito, ma non siccome è impossibile correggere tutta Wikipedia, perché è impossibile, allora è meglio spiegare questa cosa piuttosto che mettersi a correggere qualcosa che sarà impossibile che sia sempre esatta. Quindi, vabbè, quando, diciamo, quando tu possa revisionare e correggere, poi potrebbe arrivare qualcuno dopo di te convinto di avere ragione e ti sovrascriverebbe comunque. Vabbè, no, aspetta, però su Wikipedia devi mettere riferimenti, non ti puoi fidare di Wikipedia. Vabbè, a parte che bisognerebbe in teoria mettere riferimenti quando si fa una correzione, e poi ricordatevi che io conosco personalmente una persona che è in causa, è stata in causa per anni con Wikipedia, quindi con Wikipedia Italia, proprio perché nella pagina della stessa persona c'erano scritte delle mistificazioni improponibili, e quando lei ha chiesto, non ha neanche fatto lei modifiche, perché non lo puoi fare tu personalmente, no? Su quello che riguarda te stesso, pure sta cosa poi è ovviamente... c'ha anche un senso tutto sommato, però è una stronzata, sì, vabbè, però ci può anche avere un senso, perché sennò io vado alla pagina di Simone Pizzi, che non esiste chiaramente, e scrivo che c'ho il pisello di 60 centimetri, insomma, no? E vabbè, c'è gente che lo fa, cioè, immagino, però insomma in linea massima lei non è mai riuscita ad ottenere queste modifiche, che comunque per lei erano significative ed erano anche importanti, perché erano comunque delle medaglie, delle medaglie sportive, quindi insomma a livello nazionale, qualificazioni olimpiche e cose del genere. Permizio, non ce ne frega un cazzo di Wikipedia, vuole soltanto dirti questa cosa. No, no, sì, sì, lo so, però è importante anche questo come tema. Diciamo è che... importante ed è uno dei motivi per cui questo documentario fa cagare, perché ha fatto semplicemente prendendo le pagine Wikipedia, quindi crea anche... Poi Wikipedia, per come è costruito, funziona all'esatto opposto di come dovrebbe funzionare un'enciclopedia, nel senso, delle cose in cui c'è più gente che conosce quell'argomento è corretta, ma siccome è conosciuto da tanta gente, in realtà è una cosa che se la cerchi tanta gente la conosce e quindi è corretta, ma è una cosa ben conosciuta. Nelle cose invece dove c'è poca gente che conosce quell'argomento, è molto più probabile che sia sbagliata, perché se lo conosce poca gente, di quella poca gente magari la maggior parte non va a scrivere su Wikipedia, magari va a scrivere su Wikipedia quello che la conosce male, e beh, quindi di quella pagina che la conoscono poche persone, di quell'argomento che è poco conosciuto, ci sono scritte stupidate. Mortacci loro anche un pochetto, diciamo così. Che poi tra l'altro io, Marco Gualdi e Giuseppe Scaletta ci abbiamo fatto la prima stagione, anzi la prima serie di archeologia videoludica su Wikipedia. Appunto. Vabbè ragazzi, io direi che... Comunque vi dico che ce ne sono almeno una decina documentati e usciti e di grandi marche prima di questo, prima di arrivare lì. Giusto per dire, avete detto 92, nel 92 c'è Rex Nebular and the Cosmic Gender Bender della Microprose, per dirne una. No, vabbè, però fuori di metafora, la storia era che questo era un gioco parodia, il boss finale era, come cazzo si chiama, era Pat Buchanan, esatto, cioè era una questione un po' meno scema di dire sono stato il primo, e poi doveva essere parte di una trilogia, credo che il primo era uscito 3 anni prima. Vabbè, comunque in realtà a me ha fatto più che altro, mi ha dato da riflettere sul fatto che i sorgenti dei giochi vengono persi da tempi inimmaginabili. Beh, forse prima era più facile. E poi richiama i programmatori per fare i pezzi di gioco che mancano. Però forse prima era più facile perdere i sorgenti dei giochi, visto e considerato che te tenevi tutto in dischetti e a disk. Insomma, senti, in realtà, no, non mi ricordo, forse Carlo questa cosa la sa meglio di me. Non mi ricordo se era valida anche in Europa, ma sicuramente negli Stati Uniti, che ogni opera di intelletto doveva poi essere consegnata almeno in una copia, non mi ricordo quale ufficio governativo americano. Quindi teoricamente di gran parte di questa roba dovrebbero esistere i sorgenti conservati, sì, l'equivalente SIAE. Esatto, pure la SIAE è così. Esatto. C'è un equivalente della SIAE in America, dove appunto venivano depositati tutte le cose che ovviamente uscivano e di cui si richiedeva il copyright. Ci sono tre sceneggiature. Ci sono tre sceneggiature scritte dal sottoscritto che sono depositate dalla SIAE. Quindi insomma. Comunque la cosa, la notizia più importante secondo me di tutta questa cosa è che esiste lo Schulz Museum a Berlino, cioè il museo gay. Questa è la cosa più importante. Interessante. Grazie. Sì, anche uno in Italia a Torino, se vi frega qualcosa. Sì. Non si chiama Schulz Museum. No, non mi dico. Porca miseria, lo sapevo. Vabbè, comunque era sulle battaglie delle comunità italiane. Vabbè. Va bene, dai, ragazzi, ci siamo anche un po' scaldati su questo tema. Questo mi dispiace, perché in realtà non bisogna scaldarci. Noi non siamo nemici, i nemici è Netflix. Questa è la cosa più importante. E la paghiamo. E la esatto, e la paghiamo pure questo, hai ragione. Come me il nemico in questo caso, comunque abbiamo parlato male, cioè Netflix, in realtà Netflix c'entra fino a un certo punto, nel senso che Netflix ha messo i soldi, probabilmente, o non ce li ha messi, nel senso che gliel'hanno proposto e l'ha venduto, non so esattamente la storia come sia andata, Per me qua il colpevole è il regista, il produttore, che hanno voluto produrlo così, perché a Netflix se lo facevano storicamente corretto o storicamente non corretto, cosa gliene fregava loro? Per loro anzi... Dicevo all'inizio, no? Secondo me nel mare di produzioni hanno, e questa era una cosa talmente marginale che magari non c'era neanche un executive a seguire il progetto da parte di Netflix, neanche se l'hanno finanziato. Semplicemente sì. hanno dato del denaro alla persona che l'ha proposto, che poi ha seguito la realizzazione dell'opera, tra l'altro una ragazza francese, mi pare. Ecco, pure francese, che ha fatto una storia americana, tra l'altro. Tra l'altro in chat Vargan ci dice che il nemico è Spreaker, e hai ragione, ne stiamo parlando questi giorni. Su infatti, quello non c'è dubbio. Assolutamente, e John Madness giustamente dice Marble Madness, può darsi, vabbè, insomma, dice che, ma che forse sono parenti, no? Tra John Madness e Marble Madness. Vabbè, non comunque non Madness. Vabbè, oramai dice anche ho bevuto il sake, è vero, sì, sono ubriaco stasera. Pure il sake hai bevuto, riportarci stasera a maniera cinese. Vabbè. Allora ragazzi, un'opinione finale. Carlo è stato abbastanza esplicito. Umberto, opinione finale sul è una merda. È una merda, andate a fanculo pure un pochetto. Puccio, fatemi 6 puntate con Richard Garriott e sono contento. Infatti sì, sarebbe figo la storia di Richard Garriott, quella mi piacerebbe tanto pure a me, devo dire. Diceva Carlo, è in corso di pubblicazione una trilogia su Ultima, e in più se volete c'è il libro dell'autore che non mi ricordo, porca miseria, ce l'ho qui, aspetta, va, faccio in libro. Quello c'ha una faccia che un programma lo manterrebbe tranquillamente. Matto vero. Matto vero. Vabbè, tanto che lui cerca il nome, Puccio. Sì, Puccio. Ce l'ho qui. Walter. Un attimo. Puccio è quello che sta cercando. Sì, no, tu, Walter. Sì, sì, sto cercando io. Walter, concludi, di la tua opinione finale, insomma, su quello che vuoi dire liberamente. Cerco di dire. Va bene per un pubblico generico e generalista, dico male ma non malissimo. Andrei solo contato. Un paio di temi mi hanno divertito a prescindere, un paio di episodi sono stati più gradevoli degli altri, per esempio quello in cui vedevamo le tamarrate degli anni 90 di John Romero e del suo sodale, oppure l'episodio appunto in cui mi ha fatto piacere rivedere Richard Garriott, vedere Roberta Williams, e insomma comunque personaggi che la storia del videogioco, al di là di come è stata raccontata, l'hanno fatta, quindi diciamo... Ti interrompo un attimo. Roberta Williams non hanno fatto vedere un cazzo di screenshot di King's Quest, pare possibile. No, vabbè, perché sono andati più indietro ai loro primi modelli di gioco, quindi sono andati. Sì, a me è vero, fatto... però uno screen. Uno screen, dai, King's Quest. È strana sta cosa, è vero, chissà perché. Ma ripeto, anche là hanno tagliato tanto, hanno preso quello che forse faceva più fiction di tutto il girato, non lo so. Ma poi possiamo dire che Ken e Roberti a Williams sono due cialtroni incredibili, no? Possiamo dire. due hippie rimasti bloccati in quegli anni, insomma. No, lo so, loro erano Sierra, io facevo il tifo per Lucas, quindi almeno cialtroni e basta. Sierra uguale palla al cazzo, ricordiamo. Anche quello, sì. Vabbè, io poi ho una mia teoria, però lasciamo perdere. E Marco, chiudi questa puntata. Marco, hai questo onore, dai, che... Io non so come chiudere questa puntata. Non so neanche perché sono qui. Non so, ma perché dobbiamo continuare a parlare di questa cosa? E infatti abbiamo finito. Basta. Ok, spero che tu che proponga. Cosa ci ha insegnato? Che cosa? Nulla, non ci ha insegnato nulla. Non ci ha insegnato nulla. Che ci sono molti gay. Esatto. Che nel mondo dei videogiochi ci sono tanti gay che vengono maltrattati e chiusi nei stanzini, nel dimenticatoio, e anche se loro programmano dei giochi, glieli cancellano proprio perché sono gay. Questo ci hanno già insegnato sta serie, insomma. Va bene, dai ragazzi, scherzi a parte, poi torneremo con puntate un po' più semplici le prossime settimane. Ad esempio, ci sono due puntate in ballo, adesso non so in che ordine cronologico. Una, parleremo di Steam e di tutta quella marea di merda che è nello store di Steam, che non solo è disorientante per il compratore più inesperto, ma veramente alcuni sfiorano la truffa con il beneplacito dello store stesso, perché chiaramente oramai... Ma merda di videogiochi. Ecco il caso, sì, assolutamente. E poi tornerà anche Carlo Sant'Agostino in una puntata dove il titolo è Press Fire to Kill, dove cercheremo di interrogarci, anche se per Carlo la puntata dura 3 minuti come al solito, cioè nel senso, lui dice no, non è così, basta, è finita la puntata, che poi potremmo fare tutta una serie di short, cioè ci interrogheremo sul legame tra videogiochi e l'atto di sparare, no? Quindi questa cosa non tanto sulla violenza, perché ne abbiamo parlato milioni di volte, non è di violenza che parleremo, ma se c'è un legame atavico, insomma, tra il videogioco e l'atto di sparare, insomma. E questo poi è legato anche un po' a un aspetto della cultura americana, anche se poi con Carlo vedremo che in realtà le cose non sono come sembrano, e questa è la cosa più interessante, insomma. Detto questo, io saluto e ringrazio appunto Carlo Sant'Agostino. Ciao Carlo. Ciao a tutti, volevo dire solamente, giusto per il povero Andrea, che mi sono dimenticato il nome, scusami, Andrea Contato è l'autore di Attraverso il Moongate, il libro italiano sulla storia di Garriott e di Ultima. Bello. È un libro che consiglio, ne ha scritti 2 e deve uscire il terzo, se non mi ricordo male. E niente, potremmo poi, se vogliamo fare una speciale, una storia su Ultima e su Garriott, invitare Andrea in trasmissione. Oh, magari sì, sarebbe figo. Ultima, love, love, love, proprio cuoricini negli occhi. Boh, ragazzi, io giocavo a Ultima, bello, bello. Mi ricordo un cazzo, però mi piacerebbe quasi vedere se c'è qualche emulazione. Ah, no, su cosa? Su GOG ce li ho. Su GOG ci sono tutti. Mi sa che ce li ho pure alcuni grandi. C'ho a Calabet pure, attenzione, io. Sì, sì. Terribile, ingiocabile, una cosa assolutamente. Non capisci dove sta la destra e dove sta la sinistra oggi, però vabbè. Ringrazio al governo. Esatto, ringrazio, sì, lì poi tutti ci stanno, quindi situazione confusa. Esatto. Ringrazio e saluto Umberto Parisi. Buonasera, ragazzi. Allora, ricordiamo i Beceri Videoludici come podcast su Spreaker, poi mi sa che c'è un nuovo podcast adesso. Tra un po', ok, vabbè, allora quando podcast, vabbè, poi c'è YouTube e poi c'è il gioco che esce il 23, ecco, marzo. Finalmente Chronicle of Ismaut Mountains of Madness, ecco. Avventura grafica in pixel art ispirata a Lovecraft, dal nostro amato Lovecraft, il tuo amato Lovecraft, perché diciamo, no, sempre... anche Puccio, no, nostro, anche io Puccio. Perché tu lo ci ha un po' rotto i coglioni, diciamoci la verità, però il gioco va assolutamente comprato stanotte a prenderti a schiaffi con i tentacoli. Esatto, adesso sta venendo. Ringrazio e saluto Walter Sbano. Grazie a voi, ragazzi, della compagnia. Buona zona rossa a tutti. E insomma, ci risentiamo alle prossime. Bene, ringrazio e saluto ovviamente l'importante e fondamentale presenza, come sempre, no? Quella di Marco Gualdi. Grazie, non potete fare a meno delle mie constatazioni puntuali, però. Esatto. Qualche volta dovrete. Ma in realtà, secondo me, a volte quando non ci sei manca la tua presenza, sai? C'è la gente, ma il distruggitore, perché non partecipa più? È perché deve giocare Elite, quindi insomma alla fine... Elite Dungeon. In effetti, ogni volta che apro Steam, Marco Gualdi sta giocando Elite. Esatto. E mica sto scherzando. Va bene. Faceva armare. Esatto. Va bene, ragazzi, io vi saluto. Dopo la sigla c'è il brano della settimana, quindi rimanete, insomma, ancora in ascolto, una cosa carina, e ci vediamo venerdì prossimo per quanto riguarda Ludico Forum. Ci vediamo giovedì prossimo alle 21:30 invece per quanto riguarda Quando Eravamo Futuro. Domenica sera ci sarà di nuovo Michela con Mono, ritorna con la sua bellissima trasmissione. Domani forse ci inventiamo un attimo qualcosa per festeggiare questo anno speciale di Runtime Radio, ma ancora non ci ho avuto il tempo di organizzarmi. Salutiamo tutti quelli che sono stati in chat, soprattutto John Madness, che insomma è stato il nostro amico e compagno. Il sindaco di Innsbruck. Hai ragione, e buonanotte a tutti. Ciao e grazie. Ciao. Notte. Ciao. Ciao. Grazie per averci seguito. Per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte. Questo è un brano consigliato da Runtime Radio. From our dreams.